sana. Non lo sapevi? Già, con le malattie che ho avuto e coso, mi pongo a mangiare i simpatici, non si mi ammazza. Io quando faccio pure la pasta lenticchie ci metto anche una patata, la faccio sciogliere e ti esce questo bel brodino denso, ma già quanto è buono, Marco Ri. Sì, minestre fagiolo, minestre ceci, questa roba qui deve mangiare un po'. Devi mangiare roba di badetta, c'è roba asciutta sempre, che ammazza il sciogamo. Sentito male? No, asciutta no, asciutta no. È che dovrei variare di più, sì, dovrei variare di più. È che non c'ho pazienza, porca miseria. Te la fai venire la pazienza. Dino, e tu ti dico ogni tanto. Ah, io me lo so, brodo, ci hai visto. A me non lo dire. Quello che c'è mangio io, anche la guaglia. Purtroppo così, però in cantiere molte volte sei costretto a mangiarti il panino, a volte la fettina, a volte poche insalate e così via. Sì, ma penso che, insomma, a parte tua moglie, è qualche cosa che tu la gradisci di cucinartela tu come Dio comanda. Sì, io sono fatto per il pollo agrodolce, per il cinghiale, per il ragù, ce la fa anche mia moglie, ma anche a me piace farlo, le polpette, vabbè, queste cose qua. È meglio di altri pasticci che, insomma, che ha neccato Natalino, vabbè, ovviamente. Andrà bene, oh scusate, io mi devo non spostare, vi ascolto che guardo il brodo, dai, lo devo girare un po', che c'è la gabbia sotto sotto. Anche io, dai, vi devo lasciare perché tanto fra qualche minuto devo uscire a prendere il bambino da calcio, quindi ne approfitto a salutarvi ora, dai, magari se coincide più tardi, dai, riprendi Marco lì. Ok, dai. Ok, ciao Tino, sentiamo alle prossime. Buona serata, buon proseguimento. Vai da Parigi. Ciao Tino, buona serata, buon proseguimento. Ciao anche, buon ascolto a Torino. Avanti Marco. Come Natalino, non è così tremenda, cioè la roba che fa più male è quella proprio in barattolo, in scatola, quella la posso capire, ma se è surgelata, in realtà quella è roba normale, è surgelata, tu lì, basta scongelarla, comunque non ero tutti i giorni, no, che sembra che fai capire che vivo a scatolette, tipo il gatto. Sì, vabbè, ma il più delle volte elenchi roba che a me pare in impasticci. Pure a me mi piace la pasta al forno a mucchi, eppure non la so fare. L'altra volta l'ha portata Adriano che la sa fare e l'ho mangiata con gusto, ma una volta una mucchi di babba, ma poi mangio roba come ci si tocca. E poi a cucinare io non è che sia esperto. Posso fare cose un po' semplici. Vabbè, avendo un libro di ricette, seguo le istruzioni. Ah va, domenica che non vengo mia moglie, dimmi. Siccome a lei non piace il pecorino, io mi faccio una bella carbonara alla faccia sua. Lei non c'è, invito Adriano e ti la vemmo, che lui la carbonara non la sa fare come la faccio io. E così vede un po' come si fa. Ma tu fai quella originale, proprio guanciale, l'uovo messo all'ultimo, semicrudo, si deve solo un po' rapprendere. Eia, io faccio quella originale, esce questa cremina come la faccio io, perché io so il trucco, ho visto farla da un cuoco. E a fuoco spento si deve mettere l'uovo, se no fai la brittata, l'uguzzirugumi. Sì, esatto. Una volta uno, sei di quei concorrenti, non so, che poi doveva presentarlo a Canavacciuolo, dice ho fatto la carbonara, ho messo la pancetta, come ha detto pancetta, Canavacciuolo ha fatto una faccia, si è messo la mano in testa, per volte non lo picchia. No, la puoi mettere lo stesso la pancetta affumicata ed esce buona ugualmente, però ci andrebbe il guanciale perché è più dolce. Sì, ma a me piacerebbe in tutti i modi, però sai, vai allo chef e gli dici che hai fatto la carbonara con la pancetta. Poi lui è manesco, mica non faccio certe volte, anche gli assistenti certe volte alzavano la mano come dire, mamma mia, già hai capito. Sì, ti chiudevo una drambiata alle spalle e te ne smontavo un braccio, quello. Oh, comunque anche quei programmi lì, hai visto questi che fanno queste prove? E poi c'era quello pelato, poi quell'altro chef. Se non ha fatto quei programmi, comunque è vero, per umiliare le persone. C'è quel Bastiani, c'è una volta uno per poco non gli ha tirato a faccia la roba che ha fatto, come se fosse cacca. C'è un po' di arroganza, scusa che sei chef, però è fatto per umiliare le persone, lì, proprio per umiliare. Non c'entra nemmeno la cucina, capito? La cucina non c'entra lì, è per far vedere come umiliare la gente, non mi piace seguirne. Tu lo chef non fa un cazzo, mi. Lo chef in cucina controlla che tu la faccia bene la roba, perché lui non cucina, chi cucina non sono i cuochi normali, non gli chef. Di chef i cazzo sono avanti di chissà quanto confronto ai cuochi. Quelli controllano solo come è fatta, se è impiattata bene la roba, tutta questa cosa qui controllano gli chef in cucina. Perché chi deve fare lo chef? Come? Chi lo deve fare lo chef? Buonasera. No, stavamo parlando di Cannavacciuolo, di questi grandi chef che umiliano i cuochi. Se mangiasi la gredi che sono Cannavacciuolo, fare i locali, dice questo fa schifo, dovete rinnovare il locale, poco li umilia. E io non credo, ma Cannavacciuolo non so quante stelle Michelin ha, e poi quello lì cazzo ne sa di cucina. Se ti vede facendo la cosa male, ti dice che è fatta male, giustamente. Eh beh, anche i sapori, cioè si sente troppo questo, si sente troppo l'altro. È un criticone. Avanti Marco. Quello che mi ha lasciato un po' stupito è questo Bastiani, cioè no, che prima va a schifare i piatti di questi sotto esame e poi va a fare la pubblicità del McDonald's, che notoriamente è cibo spazzatura. Tutta questione di soldi. Sì, praticamente sì, ma io la faccia non ce l'avrei messa per sponsorizzare la roba del McDonald's. Sì, magari il sapore soddisfa, però non è roba sana. Tutti hanno un prezzo. Chissà quanto gli danno per fare quella pubblicità al signor Bastiani. Poi vabbè, Cannavacciuolo è più no, compagnone, però Bastiani è più antipatico un po', non, come trattava le persone. Ti ho detto che uno quasi li tira il piatto a faccia, uno. Proprio è per umiliare le persone, uno schifo il programma. E se non quel barbieri, sono tutti cuochi, a vero, Isi. E da un po' hai visto che su TikTok e YouTube no, ci sono i soliti che fanno le... Prima vanno a mangiare da quello turco che è Salt Bae, come si chiama, quello che fa cadere il sale sul gomito, che ti fa pagare la roba a peso d'oro, no? Prima vanno a mangiare lì, poi vanno mettono lo scontrino online e dire per questa, eravamo in quattro, abbiamo speso 600 euro, e va, perché ci andate allora, a parte che se ci andate vuol dire che i soldi ce l'avete, ma almeno non vi lamentate. Perché se vai da coso, da Cannavacciuolo a mangiare, cazzo voi c'è di ridinà. E poi è cucina che lì io non ci andrei mai a mangiare, perché ho visto cosa fanno in quei ristoranti ed io chissà roba non ne mangio proprio. Però vedi, io andrei più volentieri da Cannavacciuolo, che però per essere caro. Ma quello lì, quello turco, quello Salt Bae, è fuori misura, è fuori scala, cioè proprio è una presa per il culo, scusate il termine, vai Gianni. Sì, sono programmi un po' così, a me un po' mi danno fastidio, come dà fastidio amici che sfruttano questi poveri ragazzi, li giudicano, li fanno, ne dicono tutti i colori, li parlano male, boh. E così anche quello lì. Quello lì va nei locali, ma questo locale secondo lei può attirare i clienti, una pasticceria. Sì, tutta roba di gente sotto esame, un po' trattata così, insomma. Oh vabbè, la gente ci gode, a vedere le umiliazioni ci gode. E sono programmi adatti, però sempre anche quelli in mezzo di spazzatura, amici, coso, quello di quegli anziani che bisticciano, come si chiama, Uomini e Donne? Se De Murini, certo, c'hanno 80 anni, quelli a bisticciare con la tipa conosciuta da poco. Ehi, sono marpioni quelli, capito? Sono stati abituati tutta la vita a cambiare donne e cose, adesso la lascia apparire più e la lavano lì. Ehi, va bene. Poi vabbè, una volta guardavo Silvia e fratello per vedere loro sulle, nelle docce, quelle chiappone nelle docce, anche le isole famose, per avere qualche chiappa va bene, però per il contenuto culturale no, zero proprio. Marco, io stavo, vabbè, non fa dirlo qua, stavo, ero in chat con questa tipa che stava parlando di lei, del ragazzo che l'aveva mollata, eccetera, eccetera. Cazzo, questo tipo di gruppo si è uscita di Gabu. E come? Come è uscita di Gabu? Si è tolto tutto. Registrano mutande tutto. Oh. Ha detto dovete schiattare, dovete fissarmi. Interessante, ci vorrebbe uno psicanalista. C'è una tipa normale, stava parlando e poi stava parlando di lei, cosa io mi sono fermato lì chissà perché l'ho sentita parlando e stavo ascoltando, ero mezzo dormito, buro. A un certo punto ho detto beh adesso me ne vado a letto, mi spoglio e me ne vado a letto. E si è spogliato davanti a tutti. Ma in TV questo, o in chat, proprio chat vera, computer? Su TikTok. Ah, quelle cose, non chat uno a uno, tipo quelle cose a pagamento, poi tutte a pagamento poi. Tutti quei siti di incontri, tutta una fuffa. L'ho visto tramite terze persone, alla fine subito ti chiedono una carta di credito, per carità. No Marco, questa qua è una tipa normale, stava parlando di lei, era ore e ore che parlava di lei, di questo rapporto che ha avuto con questo ragazzo, che poi l'ha presa in giro, ha detto che lei fa di tutto per stare bene con le persone, però alla fine poi ci perde sempre. E si è messo un cuscino davanti, ha detto adesso mi tolgo il reggiseno e poi anche le mutande, se le ha cavate. Ma no, ho già capito, ma parliamo di altre cose che sono tutte fregature a pagamento, come quelle che ci dicono che in difficoltà che qua si riprendono i soldi, tutti in voglio, insomma, delle tele. Però vabbè, aveva il cuscino, allora non si aveva visto niente, se no gli bannano il video pure. Diciamo che si è intravisto. Vabbè, quello è il bello, che vedi e non vedi. Ma ogni tanto sul cielo danno questi programmetti strani e ogni tanto c'è anche qualche film passabile. L'altra sera c'era questo disperato che aveva il pisello piccolo e stava girando mezzo mondo per trovare metodi alternativi. Era andato in un paesaccio dell'Asia, gli volevano fare questa specie di iniezione al pene di una sostanza non ben identificata, roba che rimane rovinata a vita, poi l'ha lasciato perdere. Probabilmente così, vabbè, cielo è tutto, è quasi monotematico, è quel canale lì. Ho cambiato radio perché non mi sentivo più. Non ci sentivi più? Avevo un abbattimento. Ah, allora sono entrati al 23. Sul 12 sono. Adesso non ne sento più col gas, non ne sento più. Con questo non ne sento abbattimenti, nulla, è di lusso questo apparecchio. Che vabbè, non va nessuno vicino. Io c'è tutto l'altra luce vicino, normale che sento. Sì, ma ti dici sia una lontani, no? Da me. Quello vado a prendere l'acqua. Io sono più lontano anche da me. E tu ce li hai proprio attaccati, si può dire. Io uso un po' più pesato, ma se avessi un apparecchio del cavolo li sento sì. Ma io il rimedio, cioè, ho cambiato apparecchio e non li sento più. Infatti dipende dall'apparecchio come è filtrato. Questo evidentemente è filtrato bene perché non sento a nessuno. Poi c'ho anche lo squelch io, per non sentire il friggitorio del QRM, quindi col cacchio che sento nessuno. Pure lei che adesso, ben resistente, ma ha fatto tanto di quelle feste, non smette proprio di saltarvi addosso. Arriecchimi. Perché lui magari lo prende come un abbandono quando tu te ne sei da solo, mi ha capito? Anche Curso fa così. Se io manco poco, che tanto per dire, me ne scendo a Platamona e sto un paio d'ore fuori o cosa, quando torno mi fa le feste. Ma io non potevo portarlo perché dovevo andare da Multimedia, se no già me l'avrei portato. Sì, infatti, io molte volte perché non me lo porto? Perché devo fare commissioni il più delle volte, quindi non me lo porto per quello. Se per dire devo andare in farmacia, entro con lui, non mi dicono niente, ormai lo conosco, non mi dicono niente. Ah, boh, io non ci ho mai provato a entrare in farmacia con lui. Vabbè, poi mi piace anche la museruola, quindi che cosa fa? Sì, vabbè. Io non me lo buccio a chi devo fare commissione, lui sa a sende fa rendita la macchina e quindi è per quello che non me lo porto. Sì, ma lui era 3 ore che mi stava appresso, mi ha visto vestendo, mi stava appresso, ho pensato che lo portassi, ci sa la delusione in quella lì. Sì, infatti, e non è chiesto. Lo stesso quando se mi vede che mi sto cambiando, pensa che lo porto e poi io non lo buccio e tu rimani deluso, giustamente. A me mi dono i rugori in realtà lì, quando lo devo lasciare da solo mi fa male. Ti dico, vieni, adesso li sto venendo subito, li parlo, lui mi guarda, gira la testa, cazzo, come se mi capisce. E io ti comprendi, ma ragazzi, bari così, ma lugani comprendi, i momenti si comprendi, a lui mi rimanca solo la baraura. E a chiedono, è duro battesi, e già sono intelligenti, ma la sorte. Sono molto intelligenti. Lui se sente il rumore si avvicina alla porta o fa così, parla una maglia, capito? Di modo che scelga anche lui che vuoi entrare, tira grappa. Cavoli sui sono, se vuole entrare e non è invitato. E da quello di fronte stavano entrando. Mi ha chiamato, oh Gianni, mamma mia, cosa è successo? E cosa c'è? Pensavo che fosse mia figlia, l'ho chiamata, cavolo, ho sentito un rumore di chiavi, l'ho chiamata e ho aperto la porta perché per non farle girare le chiavi, ho aperto la porta e mi sono trovata questo qua davanti, se l'è scappato, è sceso le scale correndo, poi l'ho visto io e mio amore bevendosi la birra, tutti e due erano zingari. Figurati, tra le due fila di cazzo, Gesù Cristo mio. Ci tentano sempre, capito? Adesso che per le porte blindate aprono, non è più Grisso che teglia, fanno una cosa con la forma, c'è una specie di cosa di plastellina, cosa di gioco, e fanno la forma della chiave. No, no, hanno la chiave bulgara, hanno, tutti nusisiani. Come ti sentrano lì, si la chiave biglia la vuoi, ma di la serratura e tabrini a Ianna. Di cosa parlate? Di incursioni ladri? Ehi, com'è questa chiave bulgara? Che non sono aggiornato la tariffa, non l'ho mai fatto il ladro, quindi non lo so com'è. È una chiave che praticamente c'ha delle cose semovibili, tu quando la entri prende la forma della serratura praticamente. E cazzo ti apre la porta, non puoi nulla di va, di quelle blindate mi prende, le apre, la chiave bulgara si chiama, guarda su internet e lo vedi com'è fatta. È vero, già te lo volevo dire anch'io, è come che fosse un passepartout. Io su internet l'ho visto come fanno, e praticamente mettevano tipo una plastilina, prendevano la forma e poi facevano la chiave. No, quello è anticamente, quello lì lo usava tutti, già lo so. Però la chiave bulgara è una chiave che si adatta alla serratura. Mi, che strana che è. Sì, ma non riesco a capire il principio di funzionamento anche. C'è anche una manovella laterale, una specie di appoggio, come se dovessi girare, ma Natalino, un interrogativo, ma è come un passepartout? Oppure per aprire la serratura la deve rompere? Ah no, non la rompe, no. Ci sono quegli spuntoni, li hai visti che è fatta con delle specie di aghi? Quelli lì si muovono, tu come entri la chiave, prende la forma della serratura, diventa la chiave della serratura, diventa, e ti l'abri, altro è passepartout, è peggio di un passepartout. Allora nessuno è sicuro, cioè se loro teoricamente possono aprire qualsiasi porta chiave, serratura di quelle cose blindate, non ci si salva. Non ti salvi, no, specialmente se sono le chiavi a doppia mappa. Cazzo biglia ne tabrini a Iannami, l'ho preso. Comunque era affascinante questa storia del lockpicking, per le serrature normali, cioè almeno imparare a aprirle, mettiti per dire chiavi, che ne so, a lasciare le chiavette nella cassetta delle poste, no, ma se qui, la cassetta delle lettere, se scoprono i cosini, i grimaldelli, poi ti aprono direttamente la porta. Sì, cazzo, è difficile mi aprire quelle lì, è una gazzada. E poi ci sono quelle addirittura meccaniche o elettriche che ti trovano una corrispondenza dei piedini, quelle con la molla, no, come si chiamano, pistoncini, ecco, riescono a aprirli tutti e apre. Incredibile, guarda. È incredibile. Quello il grimaldello l'attacchi a un trapanino, con le vibrazioni da abbia la serratura. Incredibile, no, credibile, purtroppo, ma esiste la tana. Aspetta che sto leggendo un articolo del giornale vecchio, ci sono tre facce, sembrano tre romeni, aspetta che leggo. Sì, e infatti, guarda, aspetta. Quelli lì ce le hanno le chiavi bulgare, in Bulgaria le hanno inventate, buzzinosi, ziani. Allora, no, non sono romeni, questi erano Giancateli, georgiano, due georgiani e un ceco, non ceco di vista, ceco della Repubblica Ceca, è uguale, tutti quelli che sono a est di Trieste sono romeni o zingari. Sì, sono loro che ce li hanno questi attrezzi qua. Natalia, hanno fatto la serratura anti chiave bulgara, praticamente la chiave bulgara con quel tipo di serratura lì non ce la fa aprire. E allora, quella doppia mappa che io l'apro non come nulla. Basta che tu la metti girata, fai i giri dall'interno, io non la lascio mai normale, la lascio girata a metà, un giro lo faccio a metà, l'ultimo giro, di modo che la chiave rimanga di sbiecco. Sì, quando sei dentro e quando esci, e ti diventa ne quando tu esci, e c'avi non finne, cosa tutta anche la serratura con i bassati e tutto, ma chi si con la chiave bulgara di labbrimi, cazzo, e vedrà che trovano il metodo di eludere anche quell'altra che hanno fatto antichiave bulgara, ne inventeranno qualche altra, chi si rumeni, cazzo, si va a finire la carta di credito, si va a finire tutto, clonano qualsiasi cosa. Natale, un periodo c'era sempre questo camper parcheggiato al porto, dicevo che sai, passavo tante volte, dicevo non ho mai visto questo camper, è strano, stavo sospettando, insomma, beh, hanno scoperto un caso, se avevano clonato non so quante carte, avevano messo la telecamera nei bancomat e all'interno di questo camper avevano tutta l'attrezzatura per clonare le carte, gli arrivava il numero e loro clonavano la carta e andavano e ritiravano. Alla mia collega 10.000 euro le hanno rubato. Ah no, tu fidati, di tutto clonano. Quella chiave bulgara è maledetta perché se uno la sa usare apre tutte le serrature. E tipo sparito, si muove e trova l'intacco giusto. Allora, chi non è fissa, si muove, no? Quando tu ti rientri, piglia la forma di la serratura e te l'apre. Casino, tutte le trovano. Fatta la legge, trovato l'inganno di Zia Isma. Tutti i rumeni, tutte le botte. Come c'è la serratura di sicurezza? Ce la studiano già e secondo me in pochi giorni hanno la soluzione. Avete parlato in... Ho detto che sono tutti dell'est, gente, tutti slavi sono questi che fanno questa roba qua. Questi che hanno trovato al porto erano albanesi. Sì, vabbè. Albanesi, slavi, cazzo, chi più ne ha più ne metta. La chiave bulgara è già un anno che esiste, perché l'hanno inventata in Bulgaria, la chiamano chiave bulgara per quello. E la usano per aprire tutte le serrature. Diranno i rumeni, i slavi. sia subogu attrezzati. Questo dell'avvocato dove è successo invece? Non ti puoi fidare. Natalino, questo dell'avvocato dove è successo? Sono calpestati. Uia, aspetta, ho detto Natalino, questo avvocato picchiato dove è successo? Non lo so, me lo stava dicendo mia moglie che l'ha sentito al televisore, dice che l'hanno levato la faccia a Gazza campione del mondo, li hanno legati, l'hanno derubato, insomma, mi hanno levato tutti i rigurori. Cazzo, non puoi stare neanche tranquillo in casa tua. Caserta. Sì, zona di Napoli. Io avevo un'amica lì che avevo conosciuto a Baracchino di Cava dei Terrini, Salerno. A Salienti, buona. Si chiamava Occhi di Gatto, me lo ricordo ancora. Come già? Occhi di Gatto. No, ma non ho seguito chi, cosa, dove, quando. Allora ho fatto questo collegamento con questa ragazza e siamo diventati amici, mi scriveva anche le lettere, allora non si usava le telefoni, mi scriveva le lettere, capito? Siamo diventati amici tramite Baracchino. Ah, è nominativo da quello, ma allora è un nominativo conteso tra due persone. Questa era di Cava dei Terrini, non era qua. Ah, ok. Cava dei Terrini, Salerno. Siciliane dicono che siano belle mediterranee focose. Sì, questa qua era di Catania, questa che ti ho detto io di. Sì, però dici altrettanto gelose anche mi, focose quanto gelose. Se, vuoi a tradirle mi. Mamma mia, siciliane. Cazzo, ti fanno la pelle. Sono più mariti gelosi. Perché loro sono calde e sono le mogli che tradiscono i mariti. I mariti sono ben gelosi, i siciliani ce l'hanno come fama, la gelosia. E a chi noi no? Geloso sì. No, io non sono geloso, ma dico perché anche noi sardi non siamo gelosi. Se ti danno un'occasione sì, ma lì si viene proprio di cosa, di fama. Onore e rispetto, le loro parole sono. Finché non l'hanno abolito il delitto d'onore. Quando c'è stato il divorzio, una volta c'è il divorzio non ha più ragione di essere il delitto d'onore, hai capito? Perché tu te la lasci, cazzo, e non sei più sposato. Ma se prego un rubio, sì. Quello sì, però te la puoi lasciare, se la ammazzi ti mettono in galera. Quello sì, quello è vero. E infatti, meglio lasciarla per arrivare a ammazzarla. Oh, aspetta, allora sto leggendo qua, io credo che l'avessero abolito negli anni 50-60, dice che è stato abolito il 5 settembre dell'81, quindi è come dire che non era giustificato il delitto in caso di tradimento, però era quasi un attenuante, così è. Per forza, perché il divorzio non ce n'era quando c'era, una volta che eri sposato, e quindi non c'era nulla a fare. Se non potevi divorziare bisognava trovare un'altra divorzia all'italiana. Cioè ti ammazzavano. Cavolo. Ah, poi dice, avevano abolito anche il matrimonio riparatore. Ah, perché prima era obbligato, se una ragazza era incinta era quasi obbligato a sposarla. Che poi adesso lo stesso ci sono i matrimoni di riparazione, di certo non si è obbligato dalla legge, però si fanno. Magari non vanno d'accordo, ma lo fanno per i figli, si dice. Ma riparatore, quando tu la metti incinta, allora sei obbligato a sposarla, se no sei un mascalzone delinquente. Non fare come una persona che ho conosciuto io, che ha messo la bicicletta incinta, i parenti erano nurisi e l'avevano obbligato quasi a sposarsela. Quando era in chiesa, sul momento che doveva dire la frase fatidica, preso se ne è scappato dalla chiesa, tutti i parenti appresso. E se la ciappavano i cudiani buracche fusilada, in chi vi non ne buffuneggiano me? Non lo vedi che andavano col fucile a tracolla a accompagnare gli sposi? E una volta dice che questo qui si è fermato con la macchina, lei ha detto scusi, mi sa dire dove è, lui si è avvicinato, questo qui si è tolto il coltello, era un parente di lì. Ha detto che camminava sempre girandosi, con le spalle sempre coperte, nel senso che si girava ogni 5 secondi. Ah no, no. poi lì da quelle parti hanno il vizio di nascondersi nei muri a secco. E già sono andati a cercarlo dove abitava, ma c'era il padre che cacciatore con gli altri amici che stavano tornando a caccia e sono andati col fucile a minacciarlo, e ha ricevuto un paio di chioppettate e si sono fuggiti. Ah no. Lì se si vogliono vendicare si nascondono nel muro a secco, come passi ti tirano una fucilata. E già ne ha passato lui con la ricuio, già ne ha passato, era sempre cagato sotto, aveva paura che lo ammazzassero. Oh yeah, già l'ha fatta, ha cazzato. E te credo, lì non perdonano. Due funenti, sì, in queste zone devi rigare dritto. Vabbè, ma lui non la voleva sposare, l'avevano obbligata, se lo le avevano minacciato di morte se non se la sposava. No, ma non hanno neanche bisogno di minacciarti, da massa ne basta che non ti la guiovegge, non è Cristo che ti salvi. Si dentani e ti cusi in due busirati con busi da gas, quindi non sa nemmeno cugata e parado. E beh, se tu precisi di gas. No, il fucile da caccia non ne lascia a firma, perché c'ha la canaliscia, capito? Non è rigata. Quindi non puoi risalire a chi ti ha sparato. E vabbè, adesso con tutte le telecamere ci sono in giro, c'è poco da fuggire. È tutto vero di telecamere, ogni tanto ne sgamano qualcuno, adesso stanno controllando le telecamere e quello importa autore per vedere che tragitto hanno fatto, eccetera eccetera, stanno controllando tutto. E vabbè, per le telecamere per un cappuzzo, tipo un cappuzzo, un mefisto, e che cazzo ti conosci? Di quelle maschere da vecchio che si buniamo e guniamo e facevano spaventare le persone al cimitero. Ah no, e chi ti conosce? La telecamera vede questo col cappuccio nero e buh, e chi è? Buh. Capito, poi ti sentano i di notti compreso, chi è ancora beggio. Sì, se vogliono loro già certi avuti. Ui. Adesso queste telecamere che ci sono adesso sono bestiali. Cazzo. Anche quando di notte sembra che sia giorno. Hai capito? Si vede benissimo. Ce l'ha raggiunto a violetti così. Cazzo, ti sto dicendo, illuminato come te di lì. Lo vedi giaro, cazzo. E adesso sono avanzati, hanno fatto passi da gigante con queste telecamere. Sono come cavolo si chiamano? Addirittura c'hanno gli allarmi, gli hanno le poco delle robe, la ruzzi, chi t'abbaglia. A proposito, l'avete visto su Facebook quella tipa che ha denunciato che ci sono dei ragazzi, 5-6 ragazzi, che tirano le pietre alle macchine, a uno gli hanno sfasciato il vetro, a lei gli hanno rovinato la carrozzeria, ne hanno preso a sassi. Certo, dimmi tu, già se mandelli veggia. Ma a Sassari? Sì, a Alte Voce, lì sulla Budi. Guarda che sì, c'erano gli stessi che tiravano le pietre al tram, mi pare un paio di volte hanno rotto i vetri, con rischio se danno al vetro all'autista che quello perde il controllo, quelli vanno presi e data una di quelle susse alla selvaggia. E poi il tram, mamma mia, cazzo, orubul, mamma mia, vanno lo stesso, riseri, si poco in muovi, gira subito, cazzo, e provochi una strage. Allora, una volta lì, proprio dove è successa quella signora, c'era un masso in mezzo alla strada, questa macchina che io avevo davanti, la stavo sorpassando, prende questo masso in pieno, l'ha catapultato, io l'ho preso con la ruota di davanti e mi avevo fatto il cerchiolo e quadrato, è scoppiata la gomma, e mi sono dovuto comprare tutta la ruota nuova, capito? E ci credo, fanno, possono causare incidenti gravi, queste persone le devono prendere per forza. Sì, ma quello che l'ha preso davanti a me, devi vedere come si è fatto la macchina, che tutta la parte di davanti si è sfasciata. E nel bus immagina? Non so guio. Io già ho risolto in fretta, avevo 127, sono andato a Ferrovecchio, c'ho 127, ho guardato la ruota di scorta, era nuova, mai usata. Ho preso, gliel'ho messa e l'ho risolto. E manco male non ti hai facciato la pantreno. No, l'ha piegato il cerchio, ha piegato il cerchio perché l'ha preso di lato, capito? L'ha preso di lato, ma si è scoppiata anche la gomma. E niente, con 20 euro me la sono cavata, dico la verità, però quello lì ha fatto un meritato. E si sei facciato tutto il muso di davanti, ero credo che ha fatto danno. Certo. Ma Gesù Cristo mio, cazzo, mi so che si intende tutti i rigurori. Adesso oggi è passato un furgone, cazzo, la sirene spiegate della polizia, deve essere successo qualche risa, che cosa, e sono andati a Cudì. Boh. C'è stato quello dell'accelere. E allora? Questi furgoni che trasportano un po' di poliziotti miei. Cazzo, perché abbiamo sentito questa sirena che si stava avvicinando, e tu mi dici c'era polizia, si è accelerata mia moglie di abitù, di suo furgone, manno. Cazzo, boh, ci sono cazzo, il mondo si è vuciurendi. Magari è successo lì al corso, mi, qualche cosa, e sono andati lì a sedare qualche risa, che ne so. Io una volta ho visto arrestando questo tipo che stava sequestrando una ragazza, uno di quei senegalesi, la stavano caricando con la forza in macchina, questo ragazzo ben piazzato li ha visti e ha avuto un paio di camarade, l'ha liberata questa ragazza, la stavano rapendo praticamente. Ehi, cazzo, si sono vedendo i nigeriani ne vanno in tutti i gulori. A uno l'hanno buttato in terra, qua gli hanno messo le manette vicino al tabacchino l'altro giorno. Poi questi qua erano quattro pattuglie della polizia, li ho visti andando con le sirene proprio lì in porta a Sant'Antonio, appena ai giri per andare verso il corso, no? Lì dove ci sono quei bar. Hanno imbigliato, ha pigliato giù, Sarisu, e l'ha salvata questo ragazzo, perché sennò l'avrebbero ammazzata, l'avrebbero presa e portata via. Lo credo, chissà cosa avrebbero fatto. Questi qui bisogna stare attenti, perché qua ne stanno succedendo tutti i colori, già. Sigridini da sé in Nigeria, Sigridini, noi noghi, c'erano i biliardi. Cosa hai fatto, Dugic? Ecco, allora esitami. Tu voci e lampade in mari. Pure ai coglioni. E quando lo stavano arrestando gli ho chiesto il cellulare. Il cellulare, il cellulare, il polizia fa, va dentro, cammina, cosa è il cellulare? Quello non si aveva avuto tre. Il cellulare avevo bigliato per avevo becciato, gran fibimi. L'avevo fatto nuovo nuovo. Per carità di Dio. Che gente, lì oramai è tutto invaso, Natali, non si può più passare al corso, è tutto pieno di chici nigeriani. Già lo so, già lo so. È un casino. Siamo diventati la succursale della Nigeria, cazzo. Non può occuparvi del mio nigeriano, cazzo. Ma tra lì, le sirene quando le sentite? Quando non le sentite quando ho messo la portante, quando c'erano le sirene? Si è affacciata mia moglie. A sera, quando stavamo parlando. Sì, io le sentite, ho quadrato. Non so perché, stamattina a mezzogiorno è stata investita una ragazza, a mezzogiorno però, alla stazione degli autobus, cos'è, Corso Vico, dintorni, via 25 aprile, a quelle parti, però stiamo parlando di stasera, non c'è nulla ancora, non trovo notizie. Sì, domani, se è successo oggi, domani ci sarà. No, il prolungamento di coso è la stazione degli autobus, dove si fermano gli autobus adesso, via, come cazzo si chiama già, che non me lo ricordo. Prolungamento via 25 aprile, però la via non me lo ricordo come. E dopo via 25 aprile vai più avanti lì per andare dove c'era il vecchio mercato all'ingrosso, di dritto ed è lì la stazione degli autobus. Padre Girano, può essere? Sì, lì, che è praticamente la parallela via dei Grimi. Sì, sì, sì, sì, ho capito, via Palesirano, Ah, mezzogiorno questa, vabbè. E un bel incidente stanno succedendo, ogni arrivine uno. Poi c'era quello grave, dove è morto un motociclista, cavolo. Il cognome a me mi dice qualcosa, non lo so se è una persona conosciuta da me o no. E adesso a quella donna hanno dato omicidio stradale. Questa è uscita da una stradina o da qualche cosa di villetta, è uscita a mezzo strada, quello si è trovato la macchina davanti, si è sbattuto e... cacchio, non ce l'ha fatta. Ma dove? A Sassari. Quanto è? 3 giorni fa era successo. Sulla strada 2, cos'è la strada di... vecchia strada di Alghero, credo. Non mi ricordo. Forse la strada dei due mari. Quindi è verso Porto Torto. Sì, più o meno. Questa è uscita da una stradina di campagna, sai quelle a raso, è uscita senza guardare. Era arrivato un motociclista, l'ha beccata, mi pare. Vabbè, l'ha beccata e non ce l'ha fatta. Boh, vabbè. Ogni adivine autocapottate, con incidenti di continuo, donne ferite. Ma io non ho capito, io ero da 30 anni, 35 anni che la patente è mai un incidente in macchina, c'è gente che non fa, che semina gli incidenti. Com'è possibile? Marco, tocca di toccarti le balle. Cazzo. Dopo dicendo, la Tarimi, uno mi ha bloccato una macchina all'improvviso, qua. Non so come ha fatto a evitarlo, ha discutito tanto da... Perché bisogna avere... Io 4 trucchi, bisogna avere, non 2. Vabbè, dai, io vi lascio che vado a portare giù il cane, non mi racconto che era così tardi, dai. Ci sentiamo, statevi bene, buon continuo QSO, grazie per le 4 chiacchiere, ciao. Ciao Gianni, ciao. Ok, riprendi Marco. Ciao Gianni, buona serata, buon tutto. E prima c'era anche Tonino Emanuele, però che Emanuele fosse al 23, Tonino stava cucinando e presumo anche mangiando, e quindi siamo rimasti in lui. Vediamo se stanotte c'è qualche schifo da guardare in TV, se non mi arrangio per conto mio. Vedi, io qua non mi vado a vedere un cavolo in televisione, Isa. Mamma mia, che casino. Manco filmi, non me ne scarico io, tanto non me ne vado a vedere. La roba che fa paura non ne vuole sentire, assolutamente. Per me sarebbe, vabbè, drammatico non avere la TV in camera. Pensa che ce l'avevo da quando ero bambino. Vabbè, più o meno, dai, più o meno. E qua praticamente c'era la TV in unicamera un periodo. Una in unicamera da letto, una in cucina, una qua nel salone, poi vabbè, noi abbiamo cominciato a tagliare via perché tanto per cavolate che danno in TV, certe volte bisogna guardarsi vecchie cassette, DVD, streaming, quello che trovi, da. Io non trovo nulla, perché no, a me piacciono quei film d'azione, quelli polizieri, non ne busta mai da chi c'ha gatto nel rom, qua. Adesso non c'è uscita, sto parlando così per quello, a chi se no mi rompe i cattoli, ogni tanto do cavria. Fanno grafici, no? Deve stare fuori un giorno o due? No, parte sabato e ritorna lunedì notte. Ma in questi 2 giorni ti puoi fare a porco però. Sì, a voi hai. Cosa gli ho detto? Una di chi di entra e una di chi di esce, mi sta attento a non toccare l'architrave della porta quando entri con le corna. Aspetta, avete parlato in due, l'altro chi è? Io, adesso sì che si ripete Natalino, dietro la porto io Natalino, una brasiliana. Ah, che bello. Ciao Antonè, ci abbiamo scherzato a mezza serata, l'Ucraina, ci abbiamo il carico di Ucraina pronto. E allora, questo Antonello entra sempre alle ore che non deve entrare, cosa entri a fare a quest'ora quando ce ne stiamo per andare? Veramente io sono appena entrato, perché sto lavorando, glielo sai, ho ripreso a lavorare di là, quindi cosa faccio? Non posso entrare qui, ma se baracchino non è ordinare, che è fatto, hai capito? C'è l'antenna, la canna da pesca, c'è il baracchino, quello che gli ho regalato io, però non c'è più di usarlo, capito? Abbiamo da fare una serata con 40 persone la prossima settimana, e quindi stiamo preparando da andare a mangiare gli affamati. Io non lo so dove stai lavorando, capito? Perlomeno non ne sono informato. Dove stavi lavorando non lo sapevo, Antonio. Vabbè, è meglio il lavoro, prima il dovere e dopo il piacere. Vabbè, quello sì. Solo che no, da un bel tempo che non è abituato, mangio i gusci e sembrano le due cose, che mi fanno male a me. Le cosce interne, come se avessi trombato quattro persone dentro un letto, figurati, che se non per il tempo non fai nulla, ti viene il coso, i muscoli ti si ingrossano. No, lo sai cos'è, quando stai tanto tempo inattivo, dopo quando torni a lavorare, ti prova, e quello è che ti vengono i dolori, capito? Già me ne sono accorto, infatti. È stata la piscina stasera lì a Cosa, non puntava niente, quindi figurati tu. Davvero l'anno scorso per fare questi pranzi, queste cene, capito? Che organizzano gli altri, quindi adesso pensiamo, adesso abbiamo preso la piscina, poi adesso tra poco pensiamo di tutto il resto che c'è. Almeno mi diverto un pochettino, sono poche ragazze che vengono, mi costume da bagno, ohia, quindi mi raggiungo che si bigliano i miei, tu vuoi sapere il frigo pieno, la notte cazzo che non riescono neanche a cagare, da quanto sono cotte. E zia. Allora veniamo io e Marco, ci inviti tu a trombare, ci pensiamo io e Marco, che? Devo fare il mio compleanno lì adesso, devo fare, capito? Me l'ha già detto Antonello, dice quest'anno te lo faccio il compleanno, mi ha detto, e quindi mi ha detto invita che vuoi, e non c'è problema, quindi mi faccio il mio compleanno adesso a novembre lì in campagna, bello, tranquillo, speriamo che non piova, cazzo, altro che compleanno, mi voto la doccia. Avanti Marcolì. Antonio, ma dove stai lavorando? Dove è Giovanna? Dove stavo lavorando l'anno scorso io? La stessa villetta, capito? Organizziamo pranzi, cene, capito? E quindi faccio di tutto io, insieme all'altro collega che c'ho. Siamo in tre, io, Antonello e l'altro collega. Già ti mando le fotografie, o Marco. Ancora vivo il Pomponio. Allora, sono ancora vivo, ragazzi. Ancora uso come fuscia a toccarmi. Pomponio ancora vivo. Adesso me lo scrivo al calendario. Scrivi. Quindi tuo compleanno, eh? Novembre hai detto? Il 9 di novembre. E io allora già ti facciamo una festa. Vabbè, già non c'è problema, al limite quando siete mezzo cuti vi tira un po' dentro la piscina. Sì, almeno ci annacquiamo il cervello, diluiamo l'alcol. E la voglia, non è molto alta, mi puoi d'altronde la piscina, ci puoi stare tranquillamente dritto, quindi 1,20 m, una cosa del genere. Avanti, amico che mi voleva morto. Questo discorso che ci puoi stare dritto alla piscina che è 1,20 m. Allora, eh beh, cazzo, è una di quelle piscine che lo sai, no? Quelle che si possono smontare, quelle alte però. Va bene. Se ci butta da cotti in piscina, uno se non sta in piedi annega anche in 1,20 m. Sì, ma tu hai sentito cosa ti ha detto? Che ti ha detto, ci facciamo la festa, però ha detto già mi butto in piscina, perché pensa che gli altri in piscina non la prendono come lui. Io già avete in quella piscina, l'ho detto compare, a parte del punto delle zanzare. Eia, scusate che chiudo qua, sta cominciando a entrare freddo dalla porta finestra. Riprendi Natalì. Cappa. Anda bene Meira. Vabbè dai, io me ne vo, che fra un po' rientro a 50 qua e devo fa cosa. Ci sentiamo alle prossime, là. Ciao a tutti. Ciao Natalì. E che mi ha salutato. Ciao Gianni. Chi è stato Natalì? Impazzito. Antonio di preservativo, dove sei? Oh, sono qui Antonio, dai che sto riparando le cose, vi abbraccio. Ciao caro. Ripara, ripara, bello bello, ripara. Un bacione grande grande. Un bacione anche a te. Avessi Marino, sì. Ciao Antonio, ciao Natalino, c'è anche a Franco, c'è anche Antonio, avanti. Allora, indovinato il Marino, cioè a primo acchito mi sembrava un altro, perché non è più abituato a sentirti, figurati. Vabbè Marino, dove va? Tutto a posto? Per il momento tutto a posto, Antonio, tutto a posto. Vabbè, ho visto le chiamate, ma ho incasinato, non ti ho neanche chiamato, anzi ti ho chiamato ma non ho risposto, vuol dire che è incasinato. Vabbè, ascolta, in quella piscina anche le orge organizzate, sì. A voglia, si possono fare anche le orge lì, possono anche con la bottiglia in mano, tanto già non si mischia con l'acqua della piscina. No, perché se ordini anche le orge vengo io e Antonio. Ah, vabbè, già va bene. Buschiamo un po' di brasiliane, 4 o 5 ci divertiamo di lì, capito? A costo di tale io che non sono tale, chi se ne frega, io già entro nudo, poi già mi appoggio alla prima brasiliana che trovo e la uso come salvagente. Dunque piscina tutta con nudo, così è? Allora, faccio due lavori in uno. Va bene, Marco avanti, buonasera, ben alzato. Addirittura ben alzato, all'anima. Ehi, ciao Marì, c'è un'altra persona che non ho riconosciuto bene, il segnale forte, ma dalla modulazione non l'ho riconosciuto. Ero distante che stavo chiudendo la porta finestra, devo chiudere anche la finestra del bagno perché era aperto, ecco la corrente che sentivo qual era. Stavo reggendo tutto e mi ero dimenticato di chiudere. E sono in camicia, c'è abbastanza fresco. Cappa. Natalino mi pare ha chiuso, se sta ascoltando ci sentiamo, dai. E Antonio, anche io non tarderò, siamo tutta la sera in radio, mi. Marco, ha detto Antonello che a novembre fa gli anni, no, è il suo compleanno. Ha detto che organizza una festa, anzi una bella grande festa, tutti in piscina, tutti a coloro. E organizza anche l'oggetta. Ah, ho sentito che lui entra già nudo, così è. Organizza una festa a tutti a culo nudo e ordina anche e facciamo anche io già mi prendo una brasiliana come salvagente e poi ovvia la gente, già ce n'è abbastanza spazio, già è grande la piscina. La pinna è in mezzo alle gambe, se no non credo proprio, non è peggio di quelle, no, non sarei matto. Poi facciamo agganciarmi il cazzo all'ancora. E occhio che non venga qualcuno brasiliano, ci abita anche a gazzometro, guai, stai attento Antonio. Trovo senza ancora, non ti preoccupare. Occhio, bisogna stare attenti, eh. Ah, sei tu. Sì, niente, ti saluto, dai. Ciao Marco, che non mi hai riconosciuto. Scusatemi, io sto terminando la riparazione, se no se mi metto lì non riesco a combinare niente. Dai, vi abbraccio, vi ascolto. Ciao, un bacione grande, bene si fa. Benissimo. Ciao Antonio, no, sai cos'è? Avevi questa modulazione un po' barattolata, un po' cupetta, tipo segui i baracchini omologati, e non se lì era fortissimo, però non riconoscevo la modulazione. Poi sai cos'è? Io entro poco, tu entri meno ancora, non ti stavo riconoscendo. Buona serata, dai. Sì, no, niente, no, sì. Sto utilizzando un vecchio Pony 23 canali, quindi sicuramente la modulazione è un po' così trullalà. Oh, capibile, è capibile, però la timbrica è, vabbè, diversa al solito, cioè, io ho avuto anche i 6 canali per la quarzi, con l'altoparlante, il microfono altoparlante, poi l'ho lasciato fermo troppi anni e si è guastato e ce l'ho buttato nella mondezza. Vedi un po' se va meglio così? Un abisso, adesso più limpida. Questa non è 23 canali, è 40. Sì, siamo lì, dai, però l'epoca è quella. Va bene, Antone, riprendi, secondo me pure in bagno a camera d'acqua alle olive, vai Antone. Mettimi un po' di sale, già ne siamo qua, ti preoccupare, fai pure il camera alle olive, le olive. Ah, le olive in salamoia, ma queste non sono in salamoia. Le palle sono sempre olive, mi sempre in salamoia devi metterle. Dopo i 40 anni si asciuga la salamoia, Antone. No, dopo i 50 che hai capito, te le va bene stare. Babbo, fatemi fare, ciao ciao. Antone, qui ottava 95, 95 radio 5, stai arrivando, qui ottava. Ottimo, modulazione, segnale, va bene. E queste olive, Antonè, ormai sono secche queste olive. Allora, la lavagna me l'ha fatta, aspetta, sono 22 mi sono fatto con quelle olive l'anno scorso. Le ho fatte tutte fuori, mi hanno 9 euro al litro. Va benissimo Antonè, va benissimo. Già sono lavorato, e fregate, già, il lavoro c'è, non ti preoccupare. La signora Giovanna sta tutto ok, sì. Quello tutto ok, non c'è problema. Giovanna si è comprato il baracchino, si è comprato il 2009, si è comprato. Mi ha dato l'antenna magnetica mia, l'alimentatore che mi avevano regalato. Le 50 ho perso, l'unica cosa che sto aspettando di... se fanno questo 110%, se no metto il cavo esterno, se la piglia in culo. Lo verniccio di colore marrone, gli metto i chiurini e gliela piglia in culo. E dopo il 112 questo lo farò fuori, lo venderò a un euro al metro, lo affanculo, non mi interessa niente, cioè, meno male, cioè, l'ho controllato, è nuovo, è perfetto. Giovanna, chi è che ha comprato? Giovanna, 2009? 2009, 90 euro l'ho pagato, il 2009, tutto va benissimo, l'ho trovato, è perfetto. Giulio è sceso il Comex 4000, gli ho regalato l'MB più 4, abbiamo non più l'MB più 4 in pratica, cazzo, tutti quelli che ho comprato, avevo comprato 5, tutti e 5 li ho fatti fuori, cazzo. Adesso non ne compro più, cazzo, l'ultimo che l'ho pagato, l'ho pagato 65 euro. Te lo ricordi, il primo prima ho cominciato con 30, 30, 35, poi 40, poi 50, allora 65 euro, boh, non ne prendo più. C'è la scatola qui, compresso, eccetera, eccetera, non è meglio più, è meglio più 4. Mi ho regalata Giovanna, a me non userei con 2009 suo, e a me mi rimane con il 4000, quello che mi ha dato Marco, che ce l'ho giù. E poi qui c'è quel, il 2009 suo, c'è quello nero che devo dargli, solo che adesso non ho avuto tempo di niente, sto aspettando che se fanno questa facciata è bene, se no io gli passo il cavo esterno, non me ne frega niente, metto una canaletta, mi metto con un coso, con una scala lunga, mi faccio prestare e vedi c'ho la canaletta, non me ne sbatto un cazzo. Ehi, aspetta, magari arriva l'ok adesso, fra poco, e dipende l'amministratore se ha trovato la ditta, diciamo, l'impresa e così via. Allora, Antonio, scusa, com'è la modulazione? Bella questa, va bene? Perfetta. Ok, avanti Marco. Marco, c'è chiudendo l'altra porta finestra. se no ce lo porta via il vento. Antonello? Dimmi tutto. Ehi, manca si è spostata. Tutto a posto, va, e io dovevo salire con vado e poi tra una cosa e l'altra ero incasinato, Antonello. Ero incasinato. Già ti avverto comunque, già avverto e andiamo a quel posto. L'altra volta ero... dovevo fare una vista in zona vicino a te, poi era troppo presto e sono sceso giù a quel circolo d'amico tuo. E ho bevuto la faccia tua, ho bevuto, dai. Ah, Dani, se non mi cado ci vado. Non lo sento, Adesso ci devo andare domani perché devo pagare, sono andato via al CAF stasera.